Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ci ritroviamo con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre insieme al presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao amico, un saluto a tutti. Parliamo di sanità, di salute, è un tema delicato che coinvolge tantissime persone, che coinvolge i bilanci familiari delle amministrazioni regionali, soprattutto nazionali. La sanità in Italia è sempre più cara, stare bene o curarsi meglio è sempre più costoso e anche come per il lavoro, si diceva due giorni fa della fuga dei giovani verso l'estero, anche per curarsi si va all'estero. Così. Ah, guarda Mirko, certamente voglio partire da una denuncia del Censis che sostiene come a causa dei costi della sanità sono oltre 9 milioni gli italiani che hanno rinunciato a curarsi, rimandano visite, interventi e si rassegnano ad aspettare i tempi biblici per esami, diagnosi e quindi non acquistano neanche più i farmaci. Questa è una denuncia emersa da Censi su quella che è stata un'indagine promossa qualche giorno fa dalla FIPA con imprese recenti, dove sostanzialmente dicono che gli anziani oggi sono costretti a curarsi nei paesi low cost. Ma perché? Perché non sono più in grado di sopportare quella che è una spesa medica che ormai in Italia sta diventando sempre più onerosa, in virtù di quella che sono delle condizioni di vita ormai al limite della sussistenza, determinata poi da pensioni che sono sostanzialmente pensioni che non permettono più di sopravvivere, e poi arriviamo soprattutto di oltre 270.000 anziani che percepiscono pensioni da poco più 650 euro al mese, quindi cerchiamo certamente quella che è una strategia di prevenzione che una volta era una cosa molto più sentita e accessibile, oggi sostanzialmente sta diventando quasi un'esigenza quella di migrare in altri paesi proprio per rendere fattibile queste cure che praticamente oggi sostanzialmente come prima voce di spesa nei bilanci familiari anziani hanno tagliato. Una volta, credo anche adesso, quelli che andavano all'estero per curarsi erano i ricchi, i ricchissimi che andavano in paesi dove le cure sono anche più costose che in Italia. Qui invece credo che le destinazioni siano paesi dove il costo chiaramente è molto minore, se parliamo di fascia di popolazione bassa. Quali sono le destinazioni? Allora, innanzitutto c'è da dire che negli ultimi 5 anni il fenomeno delle cure low cost all'estero è cresciuto del 20%, ecco, e ha coinvolto oggi circa 400.000 anziani. Per quanto riguarda le destinazioni, innanzitutto l'anziano, perché comunque è il soggetto più gettonato in questa indagine, risulta che il 75% della popolazione anziana preferisce restare in Italia. Privilegiano le Canarie innanzitutto, però anche Grecia e la Cipro è tra i primi posti. Poi ci sono altre località come Marocco, Tunisia, addirittura Africa, Thailandia e Filippine, addirittura qualcuno parla anche di Costa Rica nelle Americhe. Certamente noi eravamo abituati a parlare molto dei dentisti, della famosa migrazione delle persone verso paesi dell'est, oggi bisogna dire che non stiamo parlando di cure dentali, ma stiamo proprio parlando di cure mediche e di spese anche di acquisti di farmaci che, come detto, oggi per i tempi e per i costi in Italia stanno diventando sempre più accessibili. Però è anche vero che a questo, alle cure dei paesi low cost, ci sono anche molte persone che stanno sempre più riversandosi negli ambulatori sociali per cercare di ricevere queste minime cure, almeno di prevenzione. Cioè, fammi capire, costa comunque meno pagarsi tutto il viaggio, andare e tornare, che stare in Italia per fare la stessa cosa? Sostanzialmente l'indagine è emerso questo. Ci sono delle cure, e ci sono dei medicinali, e ci sono degli interventi come delle terapie, dove per non dare in conto a quelli che sono i tempi e anche perché costa meno, gli anziani hanno prediletto questa migrazione verso l'estero, ma soprattutto c'è anche un'accessibilità a quelli che sono poi dei sistemi sanitari che sostanzialmente risultano anche più accessibili per quelli che sono non solamente i costi, ma anche per quelle che sono le strutture, che a detta di molti sono anche più organizzate, perché concentrano l'attività in pochi giorni rispetto a tante attività che qua dicono si fanno in periodi che diventano quasi come un cantiere determinati. Con i tempi, hai già detto chiaro che da noi le liste d'attesa possono essere lunghe, è vero che pagando, anche qui pagando di più, puoi avere la visita il giorno stesso o al massimo il giorno dopo, ma perché all'estero costano così meno, se c'è una differenza che vale la pena affrontare? Beh, dobbiamo ricordare che ci sono paesi dove sostanzialmente si vive con 200-300 euro al mese, rispetto che in Italia dove con 1.500 euro mai si fa fatica a sopravvivere, e addirittura ci sono delle condizioni in cui le persone ammalate hanno più diritti rispetto in Italia. Oggi basta che risulti essere proprietario di una casa e già per lo Stato sei un benestante e conseguentemente non hai diritto a tante funzioni e a tante agevolazioni. Oggi basta, chiunque ha una badante in casa sa quanto costa l'assistenza e come l'assistenza domiciliare viene fatta. Ci sono molti anziani che con le pensioni da 700 euro sono in paesi all'estero dove appunto con la loro pensione si sentono molto più a loro agio, soprattutto riescono a garantirsi un tenore di vita dignitoso che ormai qua in Italia sostanzialmente non c'è. Tra l'altro è la notizia della settimana scorsa che in Veneto, almeno per il Veneto, la spesa farmaceutica nel primo trimestre di quest'anno è diminuita di oltre il 4%. La regione chiaramente spende meno, ma non è detto che questa sia necessariamente una buona notizia, il fatto che si spenda meno in Veneto per i farmaci. Allora, noi come Adico è da anni che sosteniamo che le persone non hanno più soldi per curarsi e dai bilanci familiari la prevenzione è una delle voci più importanti per contenere quelli che sono dei costi che le famiglie non riescono più a sostenerci, ma è anche vero che è aumentato a dismisura quello che è l'acquisto dei farmaci tramite internet, perché oggi il sistema nazionale italiano, in cui tende a passare sempre meno medicinali mutuabili, sta diventando veramente un costo quasi improponibile, soprattutto per chi è affetto da importanti patologie. E soprattutto vediamo che a questi dati qua, negli ultimi anni, sono raddoppiati, negli ultimi 7 anni, secondo l'Istat, sono raddoppiati gli ambulatori sociali. Addirittura sono ambulatori portati avanti con il contributo di volontari e che si trovano normalmente nelle principali città, di cui anche Padova, e sono dedicati a chi non può più permettersi le cure. E qua non parliamo solo di stranieri, ma anche di tanti italiani anziani che o non ce la fanno più per le pensioni o hanno perso il lavoro e sono senza reddito. Eh sì, una situazione che si sta allargando sempre di più. Hai citato Padova, ma so che c'è Palermo, Milano, Roma, c'è anche Marghera, dove Emergency di Gino Strada ha aperto da più di un anno un ambulatorio appunto ad ingresso gratuito. Un tema purtroppo delicato e che coinvolge una fascia sempre più ampia di popolazione. Ringraziamo l'Adico, il presidente Carlo Garofolini. La settimana prossima ancora insieme per altri due argomenti. Buon proseguimento. Grazie a te, Nico, e un saluto a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.